Anche io ho un cuore. Anche io ho una mia sensibilità. E alla sera, dopo una lunga giornata in Vespa con gli amici, ritorno a casa, scendo dalla sella, mi tolgo il casco e penso, cazzo, mi fa male il culo! Un vero duro sono io, col cappellino.